sais. Tu sais, non mais sexy, perché sexy, sexy love. Tu sei super sexy, e mi fanno sempre più. Perché sei bella, perché sei bella. Perché sei bella, bella, bella, più che mai. Perché sei bella, perché sei bella. Perché sei bella, bella, bella, più che mai. Sotto la mia pelle io ti sento vivere. Amo tuo respiro quando sei vicino a me. Tu sei la mia sexy e per quello tu mi vai. Perché sei bella, perché sei bella. Perché sei bella, bella, bella, più che mai. Perché sei bella, perché sei bella. Perché sei bella, bella, bella, più che mai. Perché sei bella. Sexy, piena di sensualità.